Capitolo 9. La meravigliosa eredità. Vi è dunque una meravigliosa eredità a disposizione delle donne che hanno le necessarie qualificazioni per rivendicarla, o che soprattutto per questo sono nate, avendo magari già usufruito gioiosamente di tale eredità in una precedente vita. È un'eredità che è stata tramandata da donna a donna, da guaritrice a guarita, da maestra ad allieva, attraverso i secoli e forse i millenni. È un'eredità che proviene dalla grande madre, dalla signora dei boschi e dei fiumi, dei campi e delle sorgenti, dei mari e dei monti, della flora e della fauna. Da colei che fu chiamata in mille modi a seconda dei luoghi e dei tempi e che continuamente genera nuove forme di vita, che, quando avendo vissuto il loro tempo, si spengono, verranno da lei rigenerate. Nuovamente. Chi veramente potrà affermare di essere sua figlia, ovvero di coltivare in sé la gioia, l'incanto, l'amore, la spontaneità, la bellezza, l'allegria, la libertà, la piacevolezza e tutti gli altri buoni sentimenti che essa continuamente diffonde nel mondo, laddove la natura è ancora incontaminata e non è offesa, sporcata e sfruttata, certamente tale eredità potrà ritrovare dentro e fuori di sé. Il fatto di essere degne di ricevere tale eredità e di portarla in modo costante e stabile nelle profondità della propria natura femminile, difendendola e mascherandola dalle volgarità e dalle cattiverie del mondo, permette di rimanere sempre giovani, libere e fiorenti. Ed anche se il corpo, con il passare degli anni, invecchierà, e comunque tale invecchiamento sarà certamente inferiore a quello delle altre persone che non recano dentro di sé tale fontana della giovinezza eterna, l'anima rimarrà sempre giovane e piena di vita. La consapevolezza di avere tale tesoro dentro di sé sminuirà l'attenzione nei confronti delle cose del mondo, che avranno poca o nessuna importanza e, del tutto naturale, sarà di conseguenza il fatto di non impegnarsi e di non farsi catturare dagli affanni e dalle tribolazioni di cui sono vittime in questi tempi la maggior parte delle persone. La vita sarà piena di gioie e di allegria, che magari gli altri non riusciranno a capire, ma che sarà molto più stabile, non essendo motivata da nessuna causa fugace e peritura di quella che le persone di norma conoscono. Chi potrà vivere essendo ispirata dall'occulta e segreta fonte di gioie e di languore che deriva dalla continua consapevolezza dell'eterno femminile dentro di sé, non avrà certamente ambizioni, né si impegnerà in imprese o avventure nelle quali inutilmente sprecherebbe la propria energia, dato che già ha tutto ciò che può desiderare. Più che divertimenti strani o viaggi o avventure o nuove amicizie o danaro o altro ancora, ella cercherà l'incanto e la comunione naturale e sarà più che appagata dall'armonia, dalla gioia e dalla forza che le verranno dal vivere tali magici e indicibili momenti. Naturalmente dovrà imparare a difendersi dalle influenze nocive, che in questi tempi sono particolarmente abbondanti, e impedire loro di avvicinarsi alla sua persona. Ma quanto più la sua anima profonda sarà forte e ben centrata, tanto meno tali influenze avranno potere su di lei. Se poi ella vivesse in luoghi, ambienti o con persone nelle quali le influenze nocive sono talmente abbondanti da disturbare la sua armonia, basterà abbandonare senza rimpianti tali luoghi o tali situazioni. Infatti, i due potrebbero essere le cause per le quali l'eredità acquisita o che si sta per acquisire potrebbe essere perduta. O perché le influenze nocive intorno alla persona sono troppo abbondanti, e in tal caso, come ho detto e ho fatto nel corso della mia vita, è necessario abbandonare senza rimpianti luoghi e persone, anche se queste dovessero essere dei parenti o dei familiari ai quali si è legati da rapporti di affetto, ovvero quando l'anima sottile si ritrae dalla persona. Ma quest'ultima cosa può succedere solamente se la parte profana, ovvero l'io esterno della persona, smette di essere accordato e sottomesso alla natura profonda, e cioè se tale natura profonda viene tradita dall'esteriorità dell'individuo. Un evento di questo genere sarebbe, per chi ha conosciuto veramente i meravigliosi misteri della Grande Madre e gli indicibili stati d'essere che da tale vera conoscenza derivano, una delle cose più gravi che potrebbero avvenire, paragonabili ad un perfido tradimento compiuto dalla parte meno nobile della persona nei confronti della parte più nobile. ma è certamente poco probabile che ciò possa avvenire, dato che anche l'io esterno trova veramente il suo appagamento ed ha un senso al suo essere nel prendere coscienza del fatto di non essere altro che uno strumento dell'anima profonda, dalla quale potrebbe venire riassorbito alla fine del ciclo della sua esistenza, ove fosse divenuto totalmente un suo specchio e una sua emanazione fedele e rispettosa. Un'unica impresa per colei che porta dentro di sé l'eredità della grande madre potrebbe essere importante, e cioè il fatto di aiutare qualcuna a divenire degna della meravigliosa eredità che ella stessa ha ricevuto. Naturalmente, più i tempi diventano difficili ed oscuri, più il riuscire in una impresa di questo genere diventerà difficile. Saranno sempre di meno le persone che avranno il coraggio di prendere coscienza del fatto che la loro normalità altro non è che una mortale malattia, e che la loro anima profonda, dopo aver ispirato l'allegria e il brio della loro prima giovinezza, si sta sempre di più ritirando in una situazione di letargo e di isolamento dall'esterno e dalla vita che tali persone vivono. Questo stato di gravissima malattia, che si potrebbe definire snaturazione delle persone moderne e progredite, si sta diffondendo sempre di più e probabilmente sempre di meno saranno le persone adatte ad essere guarite, nel senso che ho cercato di spiegare nel mio scritto. Potrebbe addirittura succedere che vengano, in un futuro neanche tanto lontano, dei tempi nei quali le ultime maestre guaritrici rimaste non troveranno più nessuna donna adatta o disposta a ricevere la meravigliosa eredità che esse potrebbero trasmetterle. Forse la tecnica, la scienza, il materialismo, l'esteriorità, le mode, la necessità di produrre e di lavorare per poter acquistare e per poter usufruire degli innumerevoli prodotti moderni diventeranno il solo scopo della vita degli uomini e delle donne. Forse i falsi miti dei tempi moderni riusciranno a sradicare o ad annichilire i culti segreti della Grande Madre, rendendo le donne troppo superficiali, false, instabili, orgogliose, logiche, fredde, presuntuose ed interessate solamente a ricercare e a inseguire gli innumerevoli miraggi che il progresso loro impone, per essere degne di poter rivendicare la meravigliosa eredità della consapevolezza e del potere che deriva dal fatto di vivere in modo assoluto la propria femminilità. Tali falsi miti forse riusciranno ad ottenere il risultato che non riuscirono ad ottenere le innumerevoli feroci persecuzioni avvenute nel corso dei secoli contro le seguaci della Grande Madre. Forse verrà un giorno in cui quasi più nessuna veramente conoscerà come esperienza interiore i misteri della donna e le uniche conoscenze che si avranno a questo proposito saranno conoscenze nozionistiche dovute a letture, a conferenze, a noiosi dibattiti, ad articoli di giornali e via dicendo, che ovviamente non saranno conoscenze vere, ma delle cognizioni o delle elaborazioni mentali del tutto diverse dalla conoscenza che deriva dalla identificazione nell'anima profonda. Quasi nessuna, forse, quindi, praticherà l'incanto, né la comunione naturale, né potrà osservare e sentire le energie sottili muoversi dentro di sé, né potrà sentire gli spiriti delle varie manifestazioni naturali, né parlare con gli alberi o i fiumi o gli animali, né danzare per i boschi o per i fiori, né sentire la potenza travolgente della pura istintualità femminile nel profondo del proprio cuore e del proprio corpo. Ma se verranno questi tempi, probabilmente anche la natura tutta sarà sconvolta dall'azione distruttiva degli uomini, quando non vi saranno quasi più donne che nel segreto ancora coltivano la loro reale naturalità. Anche gli ultimi popoli che ancora vivono in equilibrio con la natura saranno forse corrotti e distrutti dal progresso e dalla civiltà. Forse scompariranno per via dell'aumento vertiginoso degli esponenti della razza umana, le ultime foreste naturali, così come forse tutti quegli animali che non avranno un senso da un punto di vista economico o di sfruttamento. I segni del progresso tecnico, e cioè i rifiuti industriali, i fili elettrici, le macchine, le industrie, le grandi città di cemento, le strade di asfalto e i binari delle ferrovie, forse un giorno abbracceranno in un abbraccio impuro e soffocante tutto il mondo, ovvero tutto il corpo della Grande Madre. La terra tutta potrebbe snaturarsi e diventare simile a un enorme deposito di spazzatura, nella quale innumerevoli uomini indaffarati e famelici, come topi che si contendono i rifiuti di una discarica o come parassiti che brulicano sul corpo di un ammalato, condurranno una vita assolutamente miserabile e non potranno neanche più immaginare la gioia, la libertà e la spontaneità che caratterizzavano gli uomini che in tempi remoti vivevano nell'assoluta naturalità, in buon equilibrio con il mondo animale e il mondo vegetale. Ma certamente ciò da cui deriva ogni manifestazione in questo mondo, se questo dovesse accadere, non potrà tollerare troppo a lungo tali offese a madre natura, e ritengo che interverrà, anche se non so immaginare come e quando, per rimettere le cose a posto. Se ciò accadrà, e i modi d'essere cattivi, volgari e violenti verranno fatti scomparire dal mondo, e l'equilibrio tra l'umanità e la natura verrà restaurato, gli uomini e le donne torneranno ad essere naturali e di certo non avranno più bisogno di quella infinità di cose inutili che oggi sono ritenute necessarie. Le loro menti torneranno pure e limpide come acqua di sorgente e saranno ripulite da tutti quei pensieri e quelle concezioni filosofiche e religiose che hanno reso l'uomo e la donna poco reali e del tutto innaturali. Essi potranno nuovamente vivere in armonia con l'ambiente, rispettandosi tra di loro e realizzando in sé, nella reciproca differenza, l'armonia della loro natura profonda. Gli uomini potranno nuovamente cercare i loro misteri maschili ed usare le loro forti e possenti energie, procurando il cibo, cimentandosi in prove di valore e difendendo la popolazione dai nemici esterni e interni. Le donne ritroveranno la meravigliosa eredità che viene loro dalla grande madre che vive nell'armonia profonda di ciascuna di esse. Ritroveranno il senso dell'essere madri, dell'essere amanti, dell'essere vecchie sagge e giovani e provocanti fanciulle. Ritroveranno in sé il potere della forza guaritrice della natura e potranno proiettare tale benefica forza su chi ne avrà bisogno, sicure di ottenere delle rapide guarigioni. In ciascuna di esse, l'anima profonda, figlia della grande madre, sarà la regina interiore che di vita in vita porterà gioia, seduzione, armonia ed amore nel mondo.